I doni è un linguaggio molto semplice, no? Però ciascuno di noi può parlare questo linguaggio, può sentirsi veramente amato, amata, se in realtà l'altro mostra un'attenzione di questo genere. Ovviamente non regaleremo mai un fiore di campo a nostra moglie se sappiamo che è allergica, o piuttosto magari se noi abbiamo delle possibilità economiche, certamente non ci presenteremo con un regalo magari di pochi spiccioli, no? È vero però il contrario, che se magari abbiamo una situazione economica difficile, e possiamo immaginare, per dimostrare tutto il nostro affetto, di fare dei sacrifici importanti e magari regalare un regalo importante, no? Ha un effetto certamente diverso. Non ha ovviamente valore o comunque non è importante ciò che si regala e né tantomeno questo linguaggio è legato al valore di ciò che si regala. Il dono è attenzione a quella persona, il dono per eccellenza. Per uno che si sposa è lo scambio degli anelli, degli anelli nuziali, ma in ogni caso può significare anche essere un dono, una cosa magari anche, voglio dire, semplice, no? Io faccio viaggi in tutto il mondo, nei 5 continenti, e nella valle della Bekaa, in Libano, mi è capitato che una persona con la quale avevamo un progetto sul Monte Libano, che ci regalasse alla fine dei legnetti levigati, e quindi dalle intemperie, dal mare, dall'atmosfera, erano molto molto particolari, però avevano un valore pari a zero probabilmente, però erano veramente particolari. Così come ci obbligò, tra virgolette, a bere un succo di colore verdastro, per lo più anche maleodorante, tutto sommato, però per lei era un segno di grande riconoscimento, di grande stima, di grande affetto, no? Evidentemente noi poi tra l'altro l'abbiamo fatto, e questo significava veramente affetto, significava riconoscenza. Quindi in verità, ecco, il dono, è questo. E ci sono delle persone che parlano, siano ragazzi, siano quindi persone giovani, così come persone adulte, che possono evidentemente sentirsi veramente amate se l'altro gli fa ogni tanto dei regali o specialmente comunque nelle occasioni importanti non dimentica di fargliele, no? A noi uomini succede che al Natale, per esempio, ci regalano sempre le stesse cose, per lo più dopo barba o calzini, o insomma cravatta. Una volta mia moglie me ne ha regalate due, il giorno appresso ne ho messa una e lei mi ha detto: vedi, l'altra non ti piace, perché in realtà voleva che le indossassi due, c'avevo due colli per lei, no? Quindi invece mio padre regalava cose in natura a mia madre, gli regalava cose in natura perché mia madre è convinta che si possa vivere più a lungo se ciò che uno mangia sono cose genuine, non trattate da un punto di vista così chimico, no? E allora gli regalò un giorno un pollastro. Guarda, io per l'anniversario di matrimonio ti regalo un pollo, perché lei dice: beh, hai visto, insomma, se uno mangia bene, dura magari, che ne so, 10 giorni in più, 20 giorni in più, campa, no? Poi se magari piove, nevica, come diceva Woody Allen, se la prende nel secchio, perché manco può uscire di casa, quindi tutto quel sacrificio che gli ha fatto fare. Ma insomma, gli regalo questo pollastro, e il pollastro pare che non si debba uccidere subito, ma bisogna farlo, dicono così i nonni, dopo che l'hanno tenuto a digiuno 2 o 3 giorni, che si svuota il gozzo o qualcosa del genere. E allora noi l'abbiamo tenuto in casa come se fosse un nostro familiare, insomma, l'abbiamo tenuto non ovviamente in tutti gli spazi, ma era al bagno, legato nella vasca da bagno. E noi arrivavamo, insomma, un po' così, con certo, insomma, un po' impauriti, no? Con circospezione, entravamo, chissà, mo dietro le spalle, poi magari si incazza, questo, quindi uno entrava così, poi dovevi ovviamente centrare l'obiettivo, quindi non ti dovevi neanche fare impaurire tanto, se dovevi fare altre cose, insomma, anche lì dovevi stare un po' attento. Un giorno questo qui sale, si slega dalle gambette, c'era una cordicella, si mette sul trespolo della vasca e mi guarda, e lo seduto, dico: che faccio? Quindi era molto incazzato, insomma, era abbastanza, eccetera. E io, vabbè, dico: vabbè, pure oggi, insomma, siamo diventati stitici per 2 o 3 settimane, tutti i familiari, finché non ammazzavano questo pollo, no? Ma evidentemente non è che siano soltanto quelle. Il dono per eccellenza è quello che invece si fa quando uno si sposa. E una volta arrivò una partecipazione di un matrimonio. E quando arrivano queste partecipazioni non è che tutti reagiscono positivamente, no? Diciamo: ma chi è questo disgraziato che ci fa questa cosa, insomma, perché ci mandano questa parte? In fondo noi che gli abbiamo fatto a questo, non è che ci siamo mai comportati male, no? E questo ci manda la partecipazione, perché ci vuole così male? Io, se siamo, ma noi gli abbiamo sempre voluto bene, cioè, sì, vabbè, però insomma, poi c'è pure la lista dei nozze, tocca sbrigarsi, dice perché? È perché se tu ti sbrighi e vai lì per primo, magari te la cavi con una cornicetta dei 20-30 euro, se arrivi per ultimo ti aspetta un bronzo di Riace, oppure che ne so, un moro di Venezia del valore di 10.000 euro, insomma, chi prima arriva prima piglia, no? Insomma, c'è. E quindi dice, adesso che mi metto? Dico, come che ti metti? Sei pieno di roba lì? Ma no, io non c'ho niente, se te pare, guarda qui, oddio, non c'ho niente, ma come? È pieno dei vestiti, cioè mi pare di metterci armati dentro casa, è pieno, Ma no, sì, guarda, questo mi hanno visto, oddio, no, no, questo nemmeno, nemmeno. Ma tu che te metti piuttosto? Che te metti tu? Io c'ho il fresco di lana, ma è il 18 d'agosto. E sudi, no? Ma io sudo dentro, non se fa, me lo faccio vedere, semmai insomma faccio una cosa un po' moderata, circospetta. Ma il fresco di lana è marrone, c'è pure le scarpe nere, ma chi se ne accorge? Con il riverbero del sole, magari la gente manco sta a guardare. Vabbè, ma io che faccio? Insomma, a proposito, senti, qui siamo testimoni, dobbiamo telefonare a Paolo, che è il testimone con la moglie dello sposo, noi siamo della sposa e magari ci andiamo insieme. Il matrimonio è a Subiaco, 20 km da Roma, che vuoi che sia? È facile. Adesso io lo chiamo, lui è ingegnere. Gli ingegneri quando parlano, no? C'hanno questo atteggiamento che chiudono i cerchi, che sezionano, che in realtà i problemi li separano, no? Partono da un certo punto e poi raccolgono le idee e quindi le razionalizzano, no? Quindi loro sono molto precisi. Noi, facoltà umanistiche, siamo più così, aperti, insomma, no? Dice, guarda, sì, ok, volemo se bene. Ma loro invece no, sì, ma come? In che modo, no? Da A passo a B, da B passo a C. Paolo, senti, devo mandare al matrimonio. Ti è arrivata la partecipazione? Eh sì, pure a noi, purtroppo. Lo so, che devi fare? Senti, ma che facciamo? Domattina partiamo, andiamo insieme, no? Eh sì, dunque, guarda, io diciamo che ho calcolato tutto. Eh sì, vabbè, insomma, tocca andare a Subiaco, che vuoi calcolare? Cioè sì, vabbè, però dico, ancora partiamo. Alle 5 meno un quarto. Dico, il matrimonio è a mezzogiorno, di pomeriggio, se andiamo lì è già finito. No, no, che hai capito, di mattina. Di mattina, alle 5 meno un quarto. Ma che andiamo a caccia? No, no, no, ma tu non hai capito, tu non hai calcolato lo scostamento quadratico medio, la covarianza, cioè tu non hai preso l'integrale di x fratto b alla terza, cioè non hai calcolato nulla da quello che mi dici. Dico, no, non ho fatto tutti questi calcoli, dico, ho detto Subiaco 20 km, purtroppo non sono andato così a fondo. Ma perché? Ma come? Allora è possibile tu non riesci a capire? Ma dico io, ma te ce voglio io, Pierluigi, se vede proprio che hai fatto economia e commercio. Comunque senti, guarda, allora, noi, se tu vai al casello, c'è un casello, dico sì, c'hai 100 euro, c'hai 50 euro, non c'hanno i soldi spicci, che fai? Scendi dalla macchina, vai da qualcuno per cambiarti i soldi, e quindi magari ci perdi un'ora, perché nessuno te vuole cambiare i soldi, poi magari trovi un bar aperto, chissà se lo trovi, e devi comprare una caramella, quello devi dare resto, insomma, c'è. Poi, magari buchi una gomma, può succedere che uno buca una gomma? Beh, sì. Ecco, e il click dove sta? Non lo so, stava qua. Beh, io non lo so dove metto, la macchina è nuova. Prendiamo il libretto di istruzioni, tanto leggi le istruzioni. C'è un click gonfiabile nella ruota anteriore destra, gonfiabile. Sì, adesso si fanno così. Quindi poi devi avere pure quello lì per gonfiarlo. Insomma, è un click particolare, speciale, lo devi trovare, poi cambi la ruota e poi Paolo, beh, può succedere pure che tu c'hai un tamponamento. Può succedere un tamponamento, sì o no? Certo, può succedere, è vero, può succedere. E il CID? Non lo so, stava qua. Io quando metti i CID qua dentro al cruscotto finiscono tutti. Ma che invece soffiate il naso con i CID? Ma io dico, santo Dio, ma io l'avevo messo qui, non c'è. E allora chiamiamo municipale, la polizia municipale, e quando arriva? Sai quando la chiami, ma non lo sai quando arriva. Ma arriva, però chissà quando, passa un'ora e mezza, 2 ore. Per lui, se succedono queste tre cose, poi non succede, perché sono cose comunissime, arriviamo pelo pelo a mezzogiorno. Cazzo Paolo, c'hai ragione. Dio mio. Senti, partiamo il giorno prima, stiamo lì magari un giorno prima, andiamo con la tenda, se piazziamo da qualche parte, stiamo lì, tutto sommato, poi all'agghiaccio di notte, se stringiamo, insomma, però almeno siamo, che dici tu? Beh, no, io ho calcolato tutto, non serve dormire lì, tu non ti preoccupare, io se partiamo alle 5 meno un quarto, ti assicuro che arriviamo a mezzogiorno. Partiamo alle 5 meno un quarto e non succede un cazzo. Perché. Alle 5 e mezza stavamo a Subiaco. Vado che i 50 euro, c'è l'arresto? Certo che ce l'ho. Perché? Dovrei vincerlo. Ma noi, vedi, 70 volte abbiamo tamponato con qualcuno. Dice no. Sei sicura? Noi magari abbiamo tamponato, non ce ne siamo manco accorti, va a finire. No, io non ho sentito niente. Ragazzi, vedete, siamo bucati, affacciatevi un attimo mentre che cammino, senza che mi fermo. Papà, guarda che le ruote stanno bene, siete sicuri? Io sento la macchina, mi si butta a destra. Ma no, papà, forse sei un po' influenzato. Arriviamo a Subiaca alle 5 e mezza, dico, mo che famo? Ci andiamo a svegliare la sposa. Angela, sì? Oddio, no, te chi è? Siamo i testimoni. Oddio, che è successo, i testimoni? Io no, del matrimonio. Perché? Chi si sposa? Dico te, non ti ricordi? Ma quando? Con chi? Oggi. Oh, ma sono le 5:30, ma che volete? Andate in giro per Subiaco, c'è il mercatino. Andiamo lì al mercatino, insomma, c'è, a mezzogiorno arriviamo in chiesa. E lì a un certo punto eravamo arrivati, eravamo lì seduti, inginocchiati. Lei, mia moglie con la veletta, io con l'abito scuro, e lo stesso lei, di lui, insomma, l'altra testimone, eccetera. E poi a un certo punto la marcia nuziale. E nella navata centrale della chiesa c'è lei, la mamma dello sposo, che accompagna lo sposo. Lei, 97 anni, con i tacchi a spillo. Dice, mo li provo, perché tanto mi si sposa sto figlio. E quindi inizia a camminare nella navata centrale col figlio. Ufficiale di capitano di vascello in alta uniforme, con la sciabola, col cappello, e lei se lo guarda fiera, mio figlio, guarda quanto è bello, bello di mamma. Altare Coram Populo, 3 gradini, grande pellegrinaggio, grande pedonabilità, altissima pedonabilità. I gradini levigati, lisci, lisci, sembrate stare su Giochi senza frontiera, voi ricordate? Lei mette un tacco male, s'alza per aria e ricasca. Boom! Io stavo così, eravamo testimoni, ma non è cascata la vecchia. Non ti muovere. Paolo, c'è. Guarda avanti. Ma non è, questa è morta, mi sa, non si muove. Non ti muovere, siamo i testimoni noi. Ho capito, ma se questa ci ha lasciate le penne, che famo? Guarda avanti, Pierluigi, guarda che famo una figuraccia qui noi. Manuè, siamo i testimoni. Sì, ma te ne sciagura, noi siamo i testimoni, te ne sciagura. Qui ci danno missione di soccorso, andiamo tutti al gabbio. Io mi alzo, allora vado lì, mi alzo, la sollevo, la rimetto in sesto. Signora, dico, senta, come sta? Dico, la rimetto un po' nelle scarpe, la rimetto dritta, eccetera. Che, mi ha visto qualcuno? Dico, guardi, ci sono 700 persone, uno lo troviamo. Però, dico, voglio dire, se questo è il problema. E poi alla fine finisce la messa, escono gli sposi, c'è il picchetto d'onore, loro passano sotto, dall'altra parte 40-50 subiacenzi. C'erano questo, un drappello di questo popolo così troglodito che stava dall'altra parte con dei sacchi di juta da 50 kg pieni di riso. Pieni di riso. Al mio segnale scateniamo l'inverno! Uno con tutto il petto da fuori così brutto, grigio come di fuori, era il fratello di lei. E c'è questo esercito di persone. Loro appena escono fuori, li impallinano 2 passi e diventano 2 supplì. Li portano praticamente su al ristorante dove il papà di lei li aspettava, gli invitati, perché c'era una torta di 7 piani che doveva poi succedere un qualcosa. La portano con la barella, insomma, con 2 portantini, la poggiano sul tavolo nuziale, la scoperchiano e non succede niente. Lui dice, oh, ho pagato, io ho pagato qui, ma com'è? Aspetta, ora vediamo, la muovono un po', ma com'è? Ci dovevano stare 2 colombe che si liberavano appena si scoperchiava l'ultima parte della torta, che però non c'erano i colombi, c'erano i piccioni, ci hanno messo 2 piccioni che c'erano 25 anni di matrimonio sempre nello stesso ristorante. Vaffanculo. Quindi insomma, un po' così, ecco, presi, cascano con la capoccia dentro un bicchiere, fanno uno sciampo, insomma, e poi lui, dulcis in fondo, con lo spadino, taglia la torta, un tocco di panna su quella che era cascata al sacro spego, insomma, una macchietta infinita. Però ecco, tanto per dire dov'è che va a parare il dono, dov'è che va a parare il dono.